sente certo da questo astrano. Alzato? Io sono alzato dalle, boh, dalle 11. Caro Pomponi, oh. Stiamo ascoltando i bambini giocando sul canale 1, mi ha voluto. Vabbè, allora ci va bene. Scusa Rita. Allora, questa Diamond BC202. E devo aspettare perché ho preso 2888 40 euro dato giorno. No, non per te. Quando potrò la prenderò io. Poi la taro e un'altra taratta decideremo la l'ubicazione. Ah beh, quello sì. Tu messi quei due apparecchi, adesso li sto caricando. Mettimi la frequenza delle 8 canali PMR e 8 LPT. Così ce l'ho. E sono a posto. Tanto su 16 canali, lo sai, no? Se funziona il portatile per programmare. Io programmavo col computer fisso, no? Poi da quando il computer fisso non c'è più, perché non funziona più la scheda video, non ho potuto più programmare nulla. Pensa che il Baofeng V5R l'ho programmato a mano, i canali gliel'ho messi a mano, li ho programmati a mano perché si può fare, non c'è bisogno del computer. Sì, ma gli 888, come li programmi a mano, se sono 16 canali a manovella? Lo so, devo scaricare il programma per gli 888, il programma loro, e sperare che il computer portatile programmi, riesca a programmare, e se no prova a farglielo fare a tuo cognato. Mi anche tu c'hai ragione, posso chiedere a lui. Vega, com'è, buona la modulazione? Sì, perfetta, perfetta. Ascolta, quella volta io l'ho trovato, era con la verticale, non con la direttiva, quindi funziona bene la verticale. Ah, ieri con la verticale. Allora, contrassegni e cavi in modo da non sbagliare, se no ti confondi tra l'una e l'altra. Vabbè, era mezzo affumicato, già lo sai, quindi eravamo a te. Ah, affumicato nel senso i fumi dell'alcol. Però io lo so, grazie a Dio. Oh, quando comincia così questa amicizia, aspetta un secondo. Tira lì due scolaccioni a tuo nipote. Giuseppe, vai al canale 15. Eh beh, ci sei. Ci sei. Marco. Marco, mi ascolti? Antone. Sei ora. Vai là. Eia, ti chiamo là. Eh beh, ci sei là. Ti sto chiamando. Allora. Sì. Giusto? 8 8, giusto? Ah? È 9, quindi non può essere. Ah sì, adesso me ne lamento più. 8 8 8 8. Ok, a posto allora, aspetta che ti chiamo. E beh, non mi ascolti la potenza bassa. Abusivo! Cos'è? E beh, qua non c'è nessuno qua. Ci sono io. Dimmi Natale, ci sono io. Ehi, aspetta un attimo che spengo il televisore, che se non sente anche quello. Beh, Natale. tasto adesso. Aspetta, per la K2 o Natalie. Ma perché sei così basso di radio? Cos'hai toccato? Ma la radio è bassa già, e va con me con questi baracchini, ma la pazzini cosa? Usa il capo, ti sento basso del radio. 9.15 è il segnale, più basso dell'altro, del capo. Adesso attacca il capo e vediamo se è uguale. Via, va bene, dai, avanti Natalie. Mi stavo sperando che me ne sono alzato adesso. No, io non mi sono collegato, io mi sono alzato tardi stamattina, quindi va bene così. Stavo un po' ascoltando l'HF, poi mi sono stato sul 15 a fare delle prove con Giuseppe, ho fatto le chiacchiere con Giuseppe, basta, capito? E poi stavo ascoltando il subbuco di Alessio in PMR. Adesso è entrato un K2, mi ha attaccato il capo. Un K. Lo dice entra internet. Cosa cazzo dei tutti? Io non ho acceso per niente oggi il computer. Staccato. Non ho acceso per niente, io l'ho acceso e già stava funzionando tutto bene. Va bene, vediamo un po' K2 se entra, perché sto misurando, perfetto, anche qua, stazionale 0, ok, che ho attaccato anch'io, commutato alla 440 con 60. Ciao, come fai? Cosa hai fatto? Oi, good evening, com'hai Gianfra? Ci siamo tornati d'estate? Stamattina sono uscito con la polo, insomma, un pochino più pesante. Sono tornato indietro a mettermi la camicia a maniche lunghe. Ma è allucinante, siamo a metà ottobre. Vedrai il tempo brutto che fa quest'anno, da paura. Stamattina Natali, lo senti a Gianfranco? Un attimo di Quirix, perché qua è successo qualcosa, no? Allora, computer, controlla, tempara, KK, avanti Gianfra, vediamo se c'è K2, se ha cambiato, K ci sei, abbassa la radio, mettila a 1 al Mickey Game, mettila a 1 al Mickey Game. Sono questi che stanno parlando tra di loro, ora sono russi. E se no? Appena abbassa ancora un pelino. Sì, va bene, lascialo così. No, l'hai toccato, ma alza appena. Alza, ma se mi parli sopra come faccio a dirti le cose? Alzalo appena. Ecco, processore inserito, lascialo così. Hai preso questa radio per attaccare i baracchini, ma non per tirare un gombo dei baracchini, ma cosa ne fai dei baracchini? Come lo rilegge? Ma ho già 3.000, ma lascia perdere 3.000, avanti già fra, lo senti a K2. Se c'ha 3.000, c'è una cosa a piangere, tanto. C'è una cosa a piangere sul serio, perché qua lo fanno comprendo quelli che ci sono fuori. No, lui è da muro, se non è da sassa, no, sta dicendo che le antenne che danno, no? Le danno per 3 kW, poi ne attacchi 500 e si sciolgono, capito? Sì, avrà quelle antenne. Poi da muro sono ancora peggio, tutti i dati che da muro io dice col segnale a 3 giga della DSL, quindi se non ricevo la lì guai. E quindi non lo senti a K2, sì? Se no, ma sono questi che erano più forti, stavo lì allo fronte. Non lo so, vediamo un po'. Oh Capri, lo senti a Gianfranco tu? Sì, ti ascolto, buonasera. Ti ascolto bene, io ho un muro, cockpit. Poi, a mano che non sei dietro la montagna, ma se sei ricordo col tuo sassa, rimuovo il tuo... lo vedo, ecco. Vabbè, lì è una zona un po' chiusa, io sento 9:20 abbondante, ma ce l'ho davanti, capito, Giaffa? Va bene, non problemi. Sta utilizzando un watt, dai. Ehi, produce sempre QRP, mettigli di 5-10 watt a questa radio, mamma mia, no, io con questa non vado mai sotto 10 watt, lascia sono 10 watt, modulati 20, lascio così, capito, perché sotto i 10 watt non lavora bene questa radio. 10 watt sono più che sufficienti, va bene. No, già va bene così. Ce ne avanza. Vabbè, no, io col K non vado sotto i 10. Capito? Sempre 10 watt lo uso, no? Se poi devo aumentare aumento, però la potenza minima per Sassari io la tengo a 10 watt. Anche i baracchini ce li ho a 10 watt, 7, 8 watt, insomma. Non ne ho baracchini che escono con 1,5 watt. Capito mi hai? Va bene, avanti Capri. C'è Natalino, si è allontanato un attimo, va? No, non ne fa niente, 9,40. Se invece mi avevo dato io, l'ho versato l'anno scorso. Non fa niente, 27,940, non serve una cicca, non serve proprio a niente, capito? Nulla, esce male in AM, non me la radio per le SSB, quelle basta. Quelle che escono bene sono queste piccoline, da queste in poi escono tutte male le radio, ma te lo dico per esperienza, perché io 9,40 ce l'avevo l'anno scorso, nuovo e l'ho venduto, capito? Dice Beck è là. Io l'ho sentito, non sono solo. Avanti Beck. Sto provando un commutatore allacciato a un ricevitore e volevo verificare, c'è parecchia applicazione che intervenga, volevo verificare se mi copiate, perché soprattutto la modulazione è continua, attenta. No, va bene, il segnale per me è 6,59, la radio è buona, è comprensibilissima, continua, c'è un po' di QSB, ma considerando il fatto appunto che la propagazione va e viene. Claudio Sparviero da Sassari, nord isola della Sardegna, in compagnia di Gianfranco e Gianni Capridù, avanti Gianfranco. Sì, anche per me è un 59, radio chiarissima, sembra... Se mi ascoltano, buona serata, l'ascolto. Mario, hai sentito? Arriva un po' basso e quindi l'ho copiato al limite del QRM. All'inizio ho perso un poco la potenza, arriva 40, vediamo, ok. Qui siamo a 30 watt, perché... Abba! Il ricevitore, il comando della volta in uscita, e quando scendo al di sotto, in ogni caso non ho copiato più l'amico tu invece mi arrivi con un radio 5 e un Santiago di 8, sempre con un po' di corso di scappa. Ok, molto bene. L'amico Gianfranco, sì, lui va sempre in QRP. Io sto andando con un tempo del 4,40, la potenza sono 10-15 watt modulati. Vediamo un po' se senti l'altro corrispondente, qualche chilometro da Sassari. Gianni, lo senti l'amico di Bari? Sì, ok, anche tu, una radio di 5. Devo lasciarvi perché devo sistemare i cavi, vi ringrazio molto per siete stati preziosi, 63 da Bari, Edoardo Eco Delta modulato. Ok, ciao Edoardo Eco Delta, un saluto dall'isola della Sardegna, Sassari, Claudio il mio nome. Ok, e a presto allora di ascoltarci, vai benissimo la grande, non hai nessuna difficoltà. Avanti Gianfra. Sì, infatti arriva benissimo, buonasera, sentiva anche la polizia tra settare. Ok, comandante radio una setta, molto bene. Lascia questo, non ti stai a mettere quei baracchini di qui, quelle vecchie baracche, tanto non serve a niente. Usa quello, fare due chiacchiere è più che sufficiente, almeno arrivi da tutte le parti, perché come ho fatto sentivo basso di radio, tutto pieno di alternate, così. Va bene, va bene. Sì, già fai così. Boh, adesso sto tempo ha ripreso nuovamente un tempo bello. Speriamo che non ci sia qualche wifragio fra poco, perché è molto strano che questo periodo non ci sia qualche giornata di acqua, qualcosa del genere, proprio continua questo sole imperterrito, ma soprattutto bellissime giornate, ti ripeto, stamattina io sono tornato indietro per togliermi la felpetta e mettermi una camicia leggera perché c'era caldo, stavo male, proprio sentivo quel caldo addosso e perciò mi sono un po' liberato. Ok, riprendi. Entrato, Avanti Natale, ripeti. Eccola. La radio non è qua. Va bene. 5 non te la do, però 4 te la do tranquillamente, molto, molto chiara, ma non è molto forte, va bene. Guarda adesso. Me lo dai 5 adesso? Sì, diciamo che si può anche fare. Dai. Così hai messo il più 4, più 5. Il più 4 l'ho messo a 2 per non disturbare, ma perché il microfono da fare non mi viene male, capito? No, ma questo è più che sufficiente, la tariffa va bene. Sì, 5 adesso. 5 bella chiara, bella, va bene così. No, ma poi quella là come ti allontanavi è un casino, è la stessa cosa che devo fare a Giuseppe. Poi sono più 4, adesso devo cambiare le connessioni. Ci vuole fare un salto perché ieri me l'ho lasciato qua a Sassari e cambio le connessioni così anche lui le viene meglio, perché con il microfono da palmo ha grosse difficoltà. Ha difficoltà e quindi ne metto questo vecchio io e Ciccio. Avanti Gianfra, riprende e fai girare. Sì, ok, grazie. No, io rimango un attimino all'ascolto perché sto controllando la posta. No, guarda un po'. È novità. Per la cronaca, adesso non so fino a che ora ci sono, però c'è quella manifestazione IT. Qui c'è il museo della radio, ci sono tante radio interessanti di tutti. Se a qualcuno interessa, ci può andare. Ok, sono un attimo all'ascolto qua. Sì, ero in 40 metri stamattina, stavo parlando con Filippo. Sì, mi ha anche mandato un messaggio, Antonio mi ha invitato, mi invita sempre, la verità. Però stamattina avevo impegni per ora reperibile, quindi non potevo, che sono libero domani, capito? E quindi non potevo allontanarmi da Sassari, non si sa mai. Però ho fatto due chiacchiere in 40 metri, sì, penso che termini stasera alle 6. Sono da ieri, sabato e domenica. Niente, sì, in comune lì, nella sala congressi del comune, penso che sia, c'è una bella manifestazione, sì, ok, vabbè, ma sono radio d'epoca, capito, quindi è bello vederlo, alla fin fine, va bene così, ok, già farai, buon Querix, ci sentiamo al limite dopo se coincide, ok, avanti Gianni, vai per Natalino, per Gianfranco. Già ti ascolto, solo che non posso alzare nulla perché sennò succede un casotto qua. Già ti spiegherà Claudio, non posso alzare nulla qua, sono con l'omologato e non posso fare altro. Ciao Gianfranco, buonasera anche a te. Sì, ce n'è uno molto molto interessante, però ci sentiamo per telefono, capito? Perché c'è un difetto che praticamente è abbastanza, insomma, una cosa abbastanza semplice, dai, sull'accensione. Però è molto interessante il prezzo, la radio è perfetta, l'ho controllata io da poco, è perfetta. È uguale a questa che sto trasmettendo io. In certe cose anche più nuova, capito? Sì, molto interessante, già, il prezzo è molto interessante, la radio è perfetta, ti ripeto, un problema sull'accensione, basta che bisogna mandare a controllare, però ti ripeto, il prezzo è molto interessante, molto. Accende e funziona perfettamente, non ha nessun problema, ok? È come che la perfetta, ha solo un problema in accensione, c'è da fare un passaggio quando lo accendi e basta. Sì, sì, non c'è problema, perché non me l'hai detto, lo 101 l'ho dato a Roberto, io ce l'avevo il 101, l'FT 101. L'ho dato a Roberto in cambio del 440, capito? L'ho dato a Roberto, che lui le piacciono pure le radio, siccome ne aveva due di 440, allora una me l'aveva data a me, ma ti sto parlando di 2 anni fa, non adesso, capito? Quindi, perché avevamo compensato, il 440 che lui mi aveva dato era un po' da revisionare, quindi l'avevo mandato a Bianconi, me l'avevo tutto fatto mettere a posto, e all'incirca insomma c'ero rientrato con la cifra del 101, capito Gianni? Insomma lui ci ritroverà dato. Va bene, dai, avanti Natalie, quando vuoi chiamami che ti spiego cosa c'ha quella radio. Ripeto, il prezzo è molto molto interessante, la radio è funzionante al 100%. Natalie. Natalie non fa, sta facendo cosa, eh? Non so, ma aveva detto tempo fa che che ne aveva preso una. Ah sì, forse per ripararsi la sua. Per ripararsi la sua. No, no, questa era completamente ferma, ma ti ripeto, questa l'ho presa un sacco di tempo fa. Ed era la mia, questa è completa di tutto. Era la mia, già, capito? Era la mia e lui ne aveva un'altra. Questa era messa da parte. No, ti ripeto, tanti anni fa, un paio di anni fa me l'aveva data. E io le avevo dato il 101. 101 di X, capito, poi altre cose, vabbè, siamo arrangiati con Roberto. E questa l'avevo mandata a revisionare, l'ho fatta rifare tutta mettere a posto, me la sono tenuta, capito? Poi c'ho anche 430 e poi ne ho un altro di 440 che mi hanno dato a vendere, che c'ha un difetto, però è un difetto di accensione, niente di che. La radio è perfetta, non ha nessun problema. Io avevo il 2010, il 2010, linea completa, trasmettitore, ricevitore, colonnina e alimentatore. E l'avevo data a Franco Delta 1, poi cosa ne abbia fatto non lo so, infatti c'ho anche le foto con la linea Uniden sotto e sopra, nel piano di sopra c'è la linea Drake, capito? Però la 2010 avevo io, non la 2020, la 2010. Sì, mi ricordo che l'obiettivo Sardegna aveva delle belle antenne. Aveva delle belle antenne già, lo so. Vabbè, le obiettive erano quelle che erano per la 3x9. Io ne ho una che però è stata modificata per i 10 metri ed è una canonata della ecoantenne tra elementi. Infatti mi dispiace che non la sto usando, ma comunque lì è sopra assieme all'altro. Alle altre, cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, non me ne ammetto. No, io, vabbè, quelli sì, 7B, il 707, 757, quelli della Jesu piccoli li ho avuti tutti, sempre per la 27, però quello che mi dava più soddisfazioni era il 7B. Le altre, le modulazioni rimanevano un po' stridule, mentre il 7B col tane più 3 andava molto bene già. avanti. Chi è che chiama Sassari? Avanti. Scusa un attimo che sono al telefono, un attimo. Massimiliano ti ha disintegrato la massa del... tenere l'aria e il viraggio davanti. Dimmi cosa hai detto Capri. Ehi, dai, saluto a tutti, una buona serata, ci sentiamo le prossime mille, dai, ciao, ciao, ciao. Aspetta, Capri, devo dire una cosa, ma ci vediamo per domani, se no poi mi dimentico, che sto diventando mezzo rincoglionito. Un minuto solo, riprendo subito, che mi deve fare una commissione lì nella zona dove lavora lui. Un attimo che chiama Italy, guarda che stanno chiamando Capri, un minuto rientro subito. Cos'è che ha detto il club? Nei canali vicini c'è gente in AM che ti arriva a 9 e anche di più, e faccio un giro sopra a vedere cosa c'è in banda laterale, ok? Forse già ci sentiamo dopo, ciao. Affresso un altro telefono, canto un attimo, c'entro subito quello c'è di Carramoli, c'è Zamana Vajani, Zamana Yadi, Mariti e Otto, Legge Villa Sati. Ma per un cambarone che ha tutto quota, Narsu Sata, Giuliani Vatanata, Casandro, Rabe, Ui Vital, Mariti. Il comitè deva, Kamai de Kamete, Yoyanin deva, Kamai de Kamete, Kadrinam deva, Kamai de Kamete, Sindas Mariano, Agara Quarente. Abbaiga Magamu, Taye, Yamado, የሚሻገርበት ወንድ ልጅ ተናዶ መሬቱ ተወዶ ቤቱ ሆኖ ወያኔን ገባ እያወቀው ወደ አነገው ሎስ ሳቴኔስ አስኮታ በብንቻ ቤት ሰውሶ ካምቢዮ ¶¶ niente. Cosa hai detto con la Mantova? Sì, sì, la Mantova 1 io ho. E che antenna è? Qual è? Quella è la Sirio. Sì, è buona, cazzo, sei 925 qua. E 920 prima. Sicuramente ha preso una botta sì già, perché il fatto che abbia bruciato la bobina, allora ha preso una botta sì, capito? Sicuramente. Comunque lascia questa antenna che va più che bene, alla grande. Lasciarne una pezza di cambio, anch'io ce l'ho un piantone della Mantova, capito? Ce l'ho radiali, c'ho il piantone, quindi che sono le cose più essenziali, dai. Si può rompere il radiale, ce l'ho in fibra, ce l'ho in alluminio, della Mantova turbo, c'ho il piantone nuovo, e quindi quelli mi ritengo, perché può succedere qualcosa e c'ho il pezzo di cambio, capito? Ne lascendo. Il piantone già pronto, con la molla già attaccata, si regola e si attacca. Conviene sempre tenerla qualcosa, capito? Già. Va bene. Natalia, ancora le prese col computer? Sì. Ciao. Avanti, provincia di Bari, buonasera. Non ho capito il tuo nome, come ti chiami, Mario? Non ho capito la stazione, non ho capito. Bari, comunque buonasera, ben ascoltato. Non te lo posso dire perché sei con molto QSB. Il segnale va da 7, 8, 5, 3, quindi molto QSB. Gianni, tu meglio l'ascolti. Ciao, chi mi ha salutato. Avanti, Gianni. Sì, QSL Mario, molto bene. Sì, segnale, ti ripeto, con molto QSB, però abbastanza comprensibile la modulazione, non ci sono problemi. Segnale varia da 7, 5, 8, quindi con molto QSB, però derivato dalla propagazione che va e viene. Ok? Sì, sì, vai, vai. Licastro, provincia di Bari. Licastro, provincia di Bari. Sì, QSL Mario, molto bene. Sì, ma il segnale potrebbe essere anche più alto, solo che hai leggermente QSB. Un po' sale e scende il segnale, ma abbastanza comprensibile la modulazione, Mario, non ci sono problemi. QSL Mario, dai, un abbraccio, grazie per essere entrato a salutare. A presto, ci sentiamo, salutissimi. Ciao Mario, avanti Breck. Buonasera a tutti, doppio russo. Ciao Gianni, buonasera. Ciao Claudio, ciao anche a Gianni. Non so se ci sia altra gente, perché la verità non ho fatto ascolto acceso adesso. Avanti, KB2, buonasera. Sì, è abbastanza bene, forte il radio, abbastanza comprensibile, dai. Ti sento saturo già. KB2 saturo, lo so. Eh già, a lui magari più lontano, io ti sento saturo, vabbè. Ok, sì, va bene così, dai, non c'è nessun problema. Va bene che va bene, Capri. E beh, se tu le dai, magari hai dato potenza e hai bruciato la bobina. C'era anche Natalina, ho già, però ha un problema col computer. Quando lo fa qualcuno ha salutato, non so chi è, avanti chi è. Io ero Claudio, scusate, prima vi stavo ascoltando, poi sono dovuto uscire, Pomponio mi dà appuntamento alle 6:15, vado lì, niente, telefono e dormito, uno dà un appuntamento e poi si addormenta, oppure lo trovo dall'altra parte della città, no, non è lucido nel dare gli appuntamenti. Ciao, buonasera a tutti, sono all'ascolto che... Capri 2 è talmente forte di radio che mi dà... Devo abbassare molto il volume, mi è fortissimo. Mi prende un po' il mal di testa, capito? Vai Claudio. Ok, vabbè. Mi guarda magari... Vabbè, l'ho sentito in PMR che stavo parlando. Dove dici dove sono? Continui a fare quello che deve fare. Avanti già. Ehi, ehi. Capri 2, allora cosa ne racconti di bello? Con che apparecchio sei uscito? Tante a rotelle se arrivavano, la radio 5 a poco. Beh, mi hai fatto un gabbacacco per procurarti 60 e poi ti sento con chi sei baracchini vintage, ma non fatti un domo, ma cosa ne fai baracchini? Usa questo e basta. Ok, minchia ogni differenza Gianni, dice Maria Gheller. Pensavo almeno te arrivasse 9, 9, 5, adesso Santiago 7. Allucinante, proprio, ti copre totalmente scala di ciocca a te, proprio per quella zona. Qua è, se non abbassa fra poco mi fascia la radio. Però pensavo ricevessi di più, almeno più di 9. Santiago 7, mamma mia. No, 7, 7. La radio è fortissima, ma il Santiago è quello. Poi, non lo so, Marco, tu come ho fatto lo ricevi, forse voi siete più favoriti. Segnale Capri 2. Capri, vieni avanti. 9 più 10. Troppo basso mi sembra, perché Marco lo stesso ha problemi per superare scala di ciocca. Capito? Quindi non so, controlla già se c'è il refrigerio tutto aperto, magari non te ne sei accorto, c'è il refrigerio chiuso. Troppo basso mi sembra, 9 e 10 per Marco già va bene. Qua Capri, ma io non faccio il testo, 9 più 30. Quindi non è quello il problema, però tra te e Marco mi sembra una differenza troppa differenza. Vabbè, riprendi Gianni. Vediamo se c'è un vaso, io lo sento fortissimo di rato, quindi basta sempre. Segnale quello lì, anzi, ti dirò di più che a picchi a 7, 6 e mezzo a picchi a 7. Ma non vuole la 7, a portante libera arriva Santiago 6 e mezzo, non arriva nemmeno a 7. Chi è che chiama? Noi chiamo, sono di differenza allucinante, cioè. Chi è che chiama Claudio? Chi è? Lui, anni 90 era più forte di Sosso, sempre innescando i sighe. Il segnale è buono, Vanni è 9, però sta innescando. Eia, sempre con l'innesco l'altro giorno c'è. No, adesso non c'è più. Va bene, comprensibilissimo, va bene, non alzare, questo è il livello, usalo così. Avanti Marco, se vuoi riprendere, se lo riprendi tu Gianni. Per me è ancora un po' di innesco. Sotto poco ma ce l'ha. Però passa appena di più, guarda. Adesso sì. No, di nuovo stai innescando. Premi la portante lunga, vedete. E lascia un po'. Vedi per. Ma non problemi che c'ho PTT, ho la radio se fa dallo vumo, cesso, gasto un chicche baracchino, vuoi visto, ma attacca quella grande. C'era sto baracchino dall'altro giorno, che avevo pigliato tutto a terra, con tutti i radio che va. Va bene, va bene. Avanti Capri. Facevamo quattro di praticamente con il canale 23, andavo sul 23, mettevo il 4 di centrale, poi lì c'è stato la mai, c'avevo la tabella controllata, ma i numeri mi ricordavo di chiave nuovo. Ci controllava molto sull'11, sul 14, me lo ricordo bene, sul 40, e i canali più o meno erano qui. Io c'avevo un 6 canali lo stesso, a Porto Torres, però l'avevo portato da Panzer e mi avevo fatto mettere tutti i canali che praticamente parlavano. C'avevo il canale 1 per Pescherici, il canale 1, il 5, il 12, che era la frequenza del Porto Torres, poi c'avevo il 21, il 23 e l'11 Alfa e basta. Quello lì. E poi da quello avevo comprato la faglietta KB23, quindi avevo 23 canali e andava bene col tunnel più 2, avevo comprato lì da Pinto Scarpa via Cavour. Bei tempi, bei tempi, mamma mia, ci avevo un... già, era un pace 6 canali, te lo ricordo il pace 6 canali? È poco buon prova del radio. Io me lo ricordo, era grosso. Io invece ho cominciato con la Fayette, 3 canali e un pace e mezzo. E parlavo con tutti, mi faceva un po' che mi infettavo, mi capettavo, mi avevo un po' nervoso. Avevo avuto quella di ampliare anche la stazione perché tutti mi parlavano sopra, capito? E lasciano parlare, dicevo più, parlavano sopra, capito? Da pensare. E me lo ricordo, un po' nervoso, poi avevo comprato quello 80 canali, quello che ti stavo dicendo ieri, 80 canali, che era bellissimo portatile, ma quello veramente. Ho cominciato con i baracchini, ho cominciato con l'Intec 430, mi pare, poi ho avuto il Polmar, insomma, gli anni dopo ho avuto la scuola. Gianni? Sì? C'era un break forse. Controlla WhatsApp. Ti do un'idea di come arriva Capri 2 alla... L'ho già mandato allo smitter, dai. Io però col pace sì, aspetta che ti faccio entrare chi mi ha chiamato. Ma io ho il pace 6 canali, avevo l'antenna sul tetto, avevo la Super Regibus, arrivavo in capo al mondo dalla casa di mamma, perché poi c'era una zona favolosa quella, centro storico, l'ho aperto molto per il mare, a Sassi arrivavo benissimo, dal Ghero, a tutte le parti, però c'avevo l'antenna sul tetto, li avevo di portati. Ehi Vanni, tu sei? Ehi, un'altra guba, buonissima, alla grande, no Luisa che li trattende ancora, questa è fenomenale, e poi il segnale è molto più alto. Ehi, nove abbondante sì adesso, come arrivavi sempre Vanni, adesso ti sento bene. Ehi, il 5, mamma mia, oggi faccio un pensierino a quella, troppo mi piace quella radio. No, va bene quella Vanni, quella va bene veramente. Va bene perché me l'aveva fatta sentire già in AM e Salvatore quando ce l'aveva, capito? Va bene. Va benissimo. E io ho cattività con quelle grandi, no? Non c'è più friende tu, amate Singosa, qui. Almeno sfruttatela un po' in 27, falla andare. Alla grande, tu hai detto sei più di 9, alla grande. Avanti Marco, vuoi riprendere o ti stai addormentando? Com'è la situazione? Non male, stasera sei calmo e tranquillo. Perché ieri mi hai fatto un po' girare i pibilisti, Già lo so che ce l'hai con me per la battutina sottovoce che ho fatto ieri. No, vabbè, ma era così, dai, no. Ok, dai, un attimino che rispondo a Gianni, a WhatsApp. Ma che tu arrivi più forte Gianni Raghiero, ti ha sentito, capito? Perché poi siamo sentiti al telefono, Marco, e vabbè, già ne parliamo di persona, dai, non va bene. A volte siamo un po' troppo impulsivi parlando, però stiamo attenti perché la gente ascolta e non è... non ce l'ho con te io. Mi hai fatto un po' girare i bibilisti, ma io non ce l'ho con te. Ormai ti conosco, lo so come si è fatto, però regolati, qualche volta regolati perché sono cose molto, molto importanti quelle, capito? Tutto qua. Ok, avanti, Capri 2, lo senti a Vannino da Sorso Capri? Ehi, ciao Vanni, dai, fatti sentire, siamo sempre qua, noi sul canale 10, non abbiamo altri canali, ne abbiamo uno solo, quindi fatti sentire, mi fa piacere, non ancora vorrei andare in San Radio. Che c'è per ferma, peggio di me. Va bene, dai, avanti Gianni, riprendi. Gianni doppio rum però, non Gianni Capri 2. Ehi, ah, mi sto facendo un'amministrazione a Marco, aspetta un secondo. Ehi, ha fatto vedere anche che mi sto contatti, non l'hai messa. La voce è talmente forte, ha un'emissione talmente forte che ti piglia il mal di testa pure, ti fa sordomi, è fortissima la modulazione Capri 2, veramente forte. Aspetta, complimenti, e a pigliarla. E io devo vederla in due, ma ho sentito a te comunque. E gliel'ho regolata io. Ah, così, l'hai messa allo stesso punto, dai. Tu ridare già, stai facendo sordo a Marco, perché io te l'ho messo a uno il Michelin, a quanto ce l'hai il Michelin del 441? Sì, il Gavino G-Crone, un attimo, cose dire. Credo è coso, è i paraglioni, erano sempre a voci. Gennaro, e già ci muore, beh, io l'ho preso lì vicino al porto, mamma abita lì, quindi mi sentivo molto forte quando erano lì sotto l'asinato. Vabbè, no Marco, perché lui grida, se no, vedi che io parlo piano piano. Abbiamo le stesse regolazioni, la stessa radio, lo stesso microfono, è che lui grida, c'è la voce molto grossa, capito? Gianni. Ehi, qua sto. Guarda che ti sta arrivando il segnale di K2. Sì, sì, sì. È molto, molto lento a caricare. Ehi, dicevo, Gianni K2, che la tua modulazione è talmente forte che dopo un po' viene il mal di testa, mi dovresti parlare un po' per gente più basso, meno affannato, mi quando parli, capito? Sei molto sanguigno quando parli, te capi? Così per me va bene, andava bene anche prima, io sono abituato, però per Marco forse va meglio così, vero? Sì, ma no, che la metta come era prima, perché così dai, in distanza non lo sentono nemmeno, in distanza molto, mettilo come era prima, dai Gianni K2, dai, a fottidina, già mi abituo io le orecchie, abba. Sono bomba, adesso hai alzato troppo, controlla, un pelino abbassa che stai per strappare, proprio un pelino, mettilo come era prima, oh, lascialo così non tocca se. Ma un pelino, basta abbassarlo, no, tu fai come ti riuscivi, ho troppo lunga, un pelino abbassa, va bene a me. Non hai visto di gridare? A me? No, l'ho ricevuto il messaggio. Io no? Sai che ti ho mandato il filmato su WhatsApp dello studio. C'è una differenza enorme tra te e Marco, perché a volte io ti sento quando per esempio c'è gente dalla parte verso le gallerie e arrivi, questo segnale è così basso da Muros non è così basso, no? Per quello te l'ho detto, non per altro, già capito, perché ci avete una differenza allucinante tra te e Marco, non so, vabbè comunque, no, non mi è arrivato niente, già sto guardando, no. Non mi è arrivato niente, non ha manco fatto BB, niente. È molto lento a scaricare da me, perché ho fatto un video più lungo, io l'ho fatto di pochi secondi, giusto con Capri, dai. Va bene. Mi, adesso è arrivato già, adesso lo guardo, dai. Riprendi Capri. Ho registrato tutti i segnali di tutti e tre. Io quando ti arrivo già a te. E vedi, secondo me era il segnale qui. Io adesso sto uscendo con 10 fatti. Tu qualche parte c'hai? Non so. Avanti, chi è? Avanti. Avanti chi chiama? Ciao Francesco, mi hai sentito da Lecce, dai. Doppio room, in compagnia di Sparviero e di Marco Condore, di Gianni K2 da Sassari. Cazzo, manco 7 ti arriva, Così, cazzo. Se fa vedendo in 4. Però probabilmente o che state parlando più di uno insieme oppure c'è qualche innesco sotto. Perché si sente un fischio. Attento, Lecce. Forse ha preso un fischio. Un innesco, dai. Non so se dipende dal fatto che ti stiano sovramodulando o se sia un innesco che c'è. Sembra da Giuseppe. No, propagazione. Però è molto con QSB, capito? Quindi è per quello il problema. Oh raga, io me devo allontanare, dai. Capri, un saluto. Ci sentiamo domani al telefono, Gianni, lo stesso. Doppio room, Marco, e chiunque fosse in ascolto, dai. Io vado a portare i cani, se ci siete rientro dopo, se no, ritenetevi tutti salutati, ok? Avanti Marco, riprendi tu. Sì, eccomi qua. Eia, dai, buona passeggiata col cane. Sono riuscito appena adesso a scaricare il video di Gianni e me lo guardo. Sì, sai perché Gianni è laggiù in fondo. K2 cioè laggiù in fondo. Gianni è diametralmente opposto e in mezzo ci sono io, capito? Qua arriva un po' più forte per quello. Però Gianni di buono c'ha il mare davanti. Io la prima volta che ho visto la casa di Gianni ho detto qua è spettacolare per parlare sulla costa anche per la propagazione, perché il mare fa da specchio. Vai Gianni, doppio room. Yeah, ciao Claudio, buona passeggiata, ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo. Ciao, Marco, lo sai cos'è? Il problema non è... Io lo sento lo stesso a Gianni, lo sento anche a porto di radio, però il segnale è quello, io non dico che sì. Controlla, guarda, il segnale di... Io da una bella mano, c'è la registrazione, si attua quella di Claudio, che arriva all'1.30, e quella di Gianni Capitone. Aspetta un attimo, ancora non è arrivato il pezzo di Capri 2. Arriva anche me. Aspetta. Aspetta, sì sì, lo vedo, lo vedo. Intorno al 6 oscillante, sul 6 oscillante, sì. Poi con picchi anche ovviamente. Sì sì, beh, capita già, capita. Siccome io non sento quello che sente Claudio, o viceversa. È tutto un mistero le onde radio. Ma sta un piccolo stacco, io per dire, col PNR arrivano 41 con lo scalo, perché col PNR è omologato, ma perché chi ce l'ha 41 con la diritta, questo sì, però non arrivo anche noi, a volte che si arrivano 41, ma è una cosa strana, c'era un parco che praticamente tra due palazzi, lo beccavo, e c'era arrivato dentro per 41. Leia. Poi ti dirò, nel video la lancetta sembra ancora più forte lui per via della vicinanza dell'obiettivo allo smitter, ma sembra 9.15, in realtà è un 9.10 di picco poi, se no è 9.5, però caspita, da lì è un ultimo segnale, non so quanti watt adesso avesse Capri 2, ci sei Capri? È minimo di 40. Ma aveva già chiuso Gianni Capri 2? No, Capri 2, ci sì. Vabbè, da forse è andato via. Sì, anche troppo forte arriva qua, mi va giù un cabo a... da prendere a piccole dosi, perché viene un po' il mal di testa. Quando la modulazione è anche troppo forte. Però in lontananza ho provato a attenuarlo all'RFG a Santiago Zero, quasi una bomba, per le distanze è una bomba quella modulazione. Eia. Attenzione Pomponio, il dormitore Pomponio, ci sei? E quindi ti avete tornato indietro stasera, non la svegliate? No, dice bene, alle 6:15, va bene, arrivo lì, chiamo il PMR, niente. Telefono al numero suo, risponde Simona, ho detto sono Marco Centonello, dormito, cazzo dormito, ti vedi in Diego, ma sono dovuto tornare a casa. Si è addormentato, non dormito. Vabbè lì, è dormito. Vabbè dai, se vuol dire se è crollato vuol dire che era stanco, che aveva sonno. Meglio farsi un pisolino che andare così, da? Gianni, siamo solo noi. Natalia, hai risolto per il computer? Si è crollato, vuol dire si è crollato dallo boom. Abbiamo chiamato un po' di forte, che si è fatto capire? Poi, e come mai, come mai? Ma la tua saga, la stessa tra le nuvole. Poi, tutte insieme qui. Roba di propagazione, mi, negli altri canali. In AM, mi. Da Sud Italia, al Centro Italia. E dove, ma? Fai io che andiamo a fare niente. No, non ne ho voglia, poi mi tocca attaccare il lineare. Non ne ho voglia proprio. Vabbè. Claudio, cosa stavi dicendo? Ci sei ancora? Ah, che c'è fallato lo fumo, Pomponio, vedi? Poi si era incavolato con qualcuno che sul canale PMR gli aveva detto che non lo sentivo, qualcuno gli ha detto qualcosa perché disturbava, non so, perché c'era qualcuno lì. E lui subito si è incavolato. Ho detto, ma chi è che ti ha detto qualcosa? Cosa ti hanno detto? Non me l'ha saputo dire. No, già l'ho sentito, mi stavo ascoltando in PMR, uno gli ha detto di lasciare il canale libero, lo stavamo usando, non so per che cosa, capito? Lui si è incazzato. E vabbè, se si è dormito vuol dire che è andato Bisanti oggi, dai, sto uscendo col cane, ciao, a dopo. Sarà in coma etilico. Favola sarà. Oi, oia. Ciao. Gianni? Noia. Capito, io sono là per 440. Cosa già? No, ho capito dove. Ho detto, sono là per 440. No, la verità, io sto qui dove baracchi, con la verità, anche se esce bene. Sono più tranquillo dove baracchi. Mi associo. Ne ho due di 440 io già, due ne ho, due 440 e un 430. Cosa già? Cosa hai detto già? Sì, perché uno l'ho preso da poco, è stato un affare, c'erano delle cose da farle fare, le ho fatte fare, me lo tengo di scorta, è stata un'occasione. Se qualcuno che chiama sottofondo, ma chi chiama? Buonasera, siete tre qui, il gruppo dalla provincia Paimena. Avanti, che mi ha fatto ben sentito dalla provincia di Lecce, qui la Sardegna, la città è Sassari, l'operatore Gianni Dobbiurù è in compagnia di Marco Pongo, Claudio Sparviero e Gianni Castiglione. Lasciami parlare. Qui la città è Sassari. Attacchendimi. Perdonarizza, è compagnia di Claudio Sparviero, Marco Fondo e Gianni Capitore. Avanti. È Luca Brittella, ciao, Luca Brittella qua. Comane. Ciao. Avanti Luca, se ascolti il dottor Luca dalla città di Sassari. Ok, ciao amico Gianni. Ciao, sono qua Mantova, come mi ascolti? Cara, il lupo. No, lui non sopravmodulare. Qui chiama la stazione Paolo Uccello. Ma io parti sinica, ti ha detto mia armata della stazione la Sardinia delante, avevo comprendito. Avanti Brindisi, la Sardegna ti risponde, la città è Sassa e l'operatore doppio numero, avanti. Stazione 50, so. Buonasera anche a te, non ho copiato da dove stai modulando. La città, la mia città è Sassa, di nord Sardegna. Operatore doppio numero, avanti. Scappa Brindisi, ti ho copiato, vai, Santiago di 5 e oscillante. In compagnia di Marco Tondo, Gianni Capidue, che adesso ti manda avanti, e poi Claudio Sparviero e Luca Brettella. Avanti, Gianni Capidue. Cole. Ma te ne prego. La mia sono circa 70 avanti, vai. Attenzione Brecco, amici di Sassari. Avanti. Buonasera, siete tre. Avanti che mi fate entrare. Ciao, Lupo, buonasera. È l'operatore Gianni Doppio Lu dalla città di Sassari, non di Sardegna. Avanti di nuovo, buonasera Mariano. Buonasera, siete tre. Qui arrivi molto bene, segnale 7-9, radio 5, senza nessun problema. Vai ancora per te? K. Con quale apparecchio stai uscendo? Così vediamo un po' le comparazioni. Con che apparecchio stai uscendo? Io sto usando un Galaxy Saturn Plus, un po' di vitamine, circa 200 watt, e un'antenna Evo 6, un'antenna Evo 6 fatta dall'amico Francesco. Vai ancora per te, sei copiato tutto. Praticamente le stesse condizioni mie, io ho un gas sotto un ecco con Master Plus, però ho 100 watt, dai, con meno di te come vantaggio. Stai uscendo con la Santiago di 9,95 con questi gas. Perfetto, purtroppo ci sono dall'est che stanno dando un po' fastidio, c'è qualcuno sottofondo dall'est che dà un po' di fastidio. Vai ancora per te amico di Sassari. Calma, però dai un controllo di radio, che quello che mi interessa è quello, dai, tu stai arrivando benissimo qua. Si sente che è un gas, la voce è tutto bella, perfetta. Perfetto, la radio è una radio di 5, senza esso è bello forte. Vai ancora per te. Ecco, va bene così allora, dai. Faccio vedere avanti da tre amici, avanti Gianni, poi per girare per gli amici. Costo è Capri 2, confermi? Perfetto, Capri 2 QSL. Mi arrivi il segnale che varia tra il 7 e il 9 e la radio di 5, Tutto perfetto. Sì, un attimo. Ecco qua. Un attimino. Attenzione, lupo di Lecce, ci ascolti Marco, stazione Condor qui. Dalla città di Sassari. Non mi tende manco volineari. Attenzione invece, lo ascolti l'amico Marco Fondo? Purtroppo Marco è coperto da un altro segnale che arriva molto forte dalla Serbia e quindi gli passa sopra, non riesco a sentirlo. Lo lupo di Brindisi, buonasera amico di Brindisi. Attenzione lupo, lupo. Avanti, chi chiama lupo? Eccomi, mi ascolti lupo, Marco Sassari. Ascolto, sei l'amico della Serbia, ti sì, appella lei il culo. Sono ti sei dato l'amico della Serbia, vediamo un po', lupo mi ascolti? Avanti, avanti. Beh, positivo, saluttoni, Luca qua, sempre in zona Sassari, nord Sardegna. Io ti ascolto bene qua, segnale 9, radio 5, avanti. Perfetto amico di Sassari, c'è un altro break da Napoli, avanti l'amico di Napoli. Un po' disturbato, e niente, no, qua c'è un altro questio degli amici della Sardegna da Sassari, e mi arrivo a segnare comunque di 3-4 ore. Minchia! Ma intanto riesci a bucare il QRM in fondo. Vai ancora a parte da Napoli, poi facciamo girare per gli amici di Sassari. Napoli non lo so. Perfetto, gli amici di Sassari. Ascolti Marco la Sassari? Sì, sento chiamare la provincia di Brindisi. Marco, stazione Condor qui da Sassari, eccomi qua, un settantina di watt K. Buonanotte, dai. Come ti avete sentito a me un 4 watt? Come? Se chiamo con 4 watt e sto modulando con 4 watt, ascolta a me, scommetti. Con quella modulazione sì. Ascolti con la buonasera 4 watt qua a Città di Sassari. Hai voglia, ti ascolto benissimo, 9.5, 9.10. Allora funziona bene, buonasera. Vulcano Gigi, con un Saturnecco, il microfono palmare. Vulcano Gigi, arrivi perfetto, anch'io sono con lo Saturn, con qualche watt in più. Vai ancora per te. Positivo, dai, 4 watt di portante bianca, 4 watt di portante bianca e poi c'è una piccola elaborazione nell'apparato, tutto qua. Però è un Saturnecco questo, Spinge bene, nessun problema, arrivi molto forte. Vai. Positivo, dai, facciamo già gli altri amici e salutando anche gli altri amici qua di Sassari, dai. Avanti Gianni doppio ru. Vabbè io l'ascolto, dai, a me mi ascolta, quindi è già appurato. C'era anche il Brindisi che stava chiamando, vediamo un po'. Brindisi si è all'ascolto. Non mi sto più capendo niente. Tutti morti. Positivo, ciao Gianni, dopo non è tempo, certo che ti ascolto, non ci sono problemi, io ho una bella antenna, una buona antenna e ricevo a tutti. Problemi non ne ho, arrivi quasi a Santiago di Nove qua da me, la cosa va bene, dai. A voglia Gianni, ciao, salutoni. Purtroppo c'è anche a Luigi, impegni, poco tempo per stare al baracchino, capito? Comunque di tanto già entra, da salutare gli amici. C'è la Brindisi che chiamava, vediamo un po' se ci ascolta. Brindisi, Brindisi sta arrivando Bassino, dai, da me c'è Santiago 3, c'è una radio di 3, dai, se posso dare. Un po' Bassino, dai. Io adesso con 10 watt, comunque adesso è aumentato di segnale, si è arrivato di colpo a 7, con USB, K, Giuseppe, dai, che c'era per il sentito. Adesso di colpo si è arrivato a 9, e dipende, la propagazione viene va. Io sto scendo liscio, dai, sto scendo con un Saturnecco liscio, non so che segnale mi puoi dare a me, però io sono liscio liscio. Giuseppe? A che sta il controllo se n'è andato? Mi prendi adesso per girare per l'amico di me? Io no, che cosa faccio girare? Quello mi ha risposto lupo, poi dice che c'erano i serbi che stavano coprendo. Luigi è fortunato anche perché è libero, non ha palazzi, a me c'è tutta Brunicerda e mi copre l'Italia. Vero Luigi? Forse sarà, no, io ce l'ho libera l'antenna, ce l'ho in alto e non mi crea problemi, ascolto bene. Ascolto bene e esco anche bene. Voglio dire, è libero, è campo libero l'antenna mia, capito? Io quando ho messo un watt, proprio quando l'avevo fatto al negozio qua, al supermercato, avevo cercato di eliminare tutti i watt proprio a zero. L'avevo portato a un watt chiudendo tutto il radio e tutto quanto e mi sentivano in propagazione. Figurati un po'. Eia. non c'è più nessuno che chiama dal sud Italia, avanti. Non c'è più nessuno, è finita la propagazione. Avanti sud Italia, buonasera, si ascolti l'isola sarda. Sì, la sud Italia. Positivo, dai, qua è Vulcano Gigi nel nord dell'isola. in quelli di Sassari. Periferia, diciamo, io dico provincia di Sassari, ma sono in periferia di città di Sassari, in compagnia di un pugno di amici qua che stiamo andando avanti. Gianni Doppio Ru, vai da Gianni Doppio Ru, per l'amico di Brindisi. Sì, salve, qui la stazione di Gianni Doppio Ru della città di Sassari, che ti si circondializza avanti Brindisi col tuo KRZ KR5, dai. Questo animale ti passo Marco Condo, sempre a Sassari, per farti sentire, dai, avanti Marco. K, ho copiato bene? Torchiarolo, qui Marco da Sassari, riprendi pure l'amico di Brindisi. Già, mi sta sparendo, vai tu. Da me arrivi 9, Marco non lo so, queste arrivano 9 da me. Ti ha chiesto il controllo, Marco? Allora, qua c'è molto QSB, vieni avanti. Allora, da 5 a 7 con QSB, io sto usando un Superstar 3009 con un'ottantina di watt, K. D'accordo, io rilancio l'amico Gianni che poi rilancerà per Luigi, vai Gianni. K, saluto l'amico di Brindisi. Allo passo. Sale prossimile, dai, quando la propagazione sarà più forte, avanti con Gigi Vulcano, che tu dici? Hai saluto Giuseppe, mi pare che io mi ricordo il nome, Valerio, nella provincia di Brindisi, ecco, salutone qua della provincia di Sassari, Vulcano Gigi. Comunque questo è un Saturnecco, microfono normale, tutto normale qua. E alle prossime, ciao Brindisi, un salutone dalla Sardegna. Oh, ciao. Oh Gianni, devo chiudere, dai, mi sta chiamando mia moglie. Sì, agita, non vorresti dare con la continuazione. Avanti Marco, guarda che c'è anche capito. Giusto, anche che Gianni riprendi KP2. E tu che state parlando? Brindisi, ha chiuso. Brindisi, è un bel popolazione, eccetera. Ehi, poi altre stazioni erano arrivate, mi c'è anche Luca del Monte. A Boggia, il 940 c'è? 1, 2, 3. Non se te ne voglia. 80. 940 pieno, sì. Quante cose mi stai qua? Il mio vicino. Quel porcaccione. Chi era l'altro? Io. E tu sei 10 dB meno. Sono anche più lontano, guarda. Perché attaccato tu sei 30 quando lui è liscio. Non c'è differenza, Claudio. C'è più differenza di punto. Lui si trova proprio in alto. Si trova in alto e al centro, normale che arrivi più forte, no? Essendo il viale stretto in alto, è normale che più vicino a te. Io vi vedo tutte e due. Voi due ci avrete una differenza allucinante. Con ricevitore. Vabbè, comunque pronti, sentiamo. Tu sei 30 agganciato, lui è 30 liscio. Tu sei 20 liscio. Lui è 30 praticamente. 10 lui avete differenza. Va bene. Tu ti vuoi ancora andare? Mi la puoi cambiare piccola. Ah, le dovrei andare da una giovane a camminare sulle 8. Ma l'hai già portato il cane? Sì, alle 7:30, sulle 8, mezz'ora, non basta. L'ho fatto lì nella piazzetta dell'edicola già. Una signora, una ragazza, con un Cavalier King. Penso che mancava una Recci. Ho detto, ma così è nato? No, da piccolino, un pitbull, dall'altro morso si è mangiato l'orecchio. Che cazzo? Il Cavalier King ce l'ha lunga di orecchie. Vabbè. Ma perché a quella capita il mio palazzo? Che c'è vicino a casa non ha preso lo Yorkshire dal braccio, stava aprendo il portone, ha preso lo Yorkshire, l'ha strappato dal braccio, se l'ha portato lontano, l'ha fatto il tappeto e l'ha lasciato un po' in terra. Che cane orrendo, cazzo, per carità. Ma è come? Così ce l'aveva a guinzaglio, è passato questo pitbull, si è finito la vedere a ridere a me, senza farle niente. Così, gli ha dato proprio un morso all'orecchio, ha visto queste orecchie, deve essere lunghe, gli ha dato un morso all'orecchio e se l'ha portata via, cioè gliel'ha attaccata. Dove dirle, signora, se vuole, dal mio cane li faccio staccare anche l'altro. No, lo conosce a Filippo, infatti mi sono fermato per quello, io non mi fermo mai quando sono questi cagnettini piccolino, perché Filippo li sopporta, però ci hanno visto questi cadetti piccolini, di avvicinarsi e morsicarlo, no? Stuzzicarlo. L'altro giorno c'era lo stesso un Yorkshire, che sono i più rompipalle dei cani, e le stava morsicando la zampa. E Filippo, visto che si è girato la prima volta, la seconda volta siamo avanti con questa, gli ho attaccato la testa e sono dei rompipalle, cioè è un cane così grande, no? Non scocciarlo, e si girano, per forza si girano, capito? Però Filippo è molto tranquillo, e questo qui lo conosce, perché non è che ci gioca, però si ferma, lo odora, non le dà fastidio, poi è bravissimo questo cavaliere King, ma non mi dico mai avvisato che gli mancava una Recci, è proprio tagliata di netto. Cavaliere King cosa vuole? Ma perché c'è gente che così il pitbull li lascia anche vivi. Questa ragazza che ce l'ha, l'ha distrutta una volta per morsicare un cane, l'ha buttata in terra, si è cavata la bucerola di quelle con lo stesso strato, no? Si è cavata quella zampa, è andata in attacco a sciugare, l'ha fatta con un castellano, l'ha fatto segnato. Ma allora ci ha speso 250 euro per farlo suturare. E tanto che non è denunciato, e non posso, lo sai com'è quello lì. No, Filippo c'è un pitbull qua femmina, però è abbastanza grande, che entrano tutte e due assieme nel giardino, però non si danno fastidio, perché un giorno questa si è avvicinata questo cane, no? A Filippo. Filippo distinto, forse così un po' si è girato, evidentemente deve essere un bravo cane, femmina, capito? E non si è avvicinata più. Però adesso quando io entro nel giardino, lei è libera, non si avvicina più a Filippo. Io Filippo lo mollo, lo tengo guizzato, però non si avvicina più, capito? Dipende dai cani già. Questi cani così aggressivi, questi pitbull, sono di chi si randagini, di chi si gane, di chi si niente in randaggia, che non aveva nessuna educazione al cane, perché se no il mio collega ce l'aveva il pitbull puro, ma bello veramente. Ero l'unico che quando Gabriele era in malattia, che andavo a trovarlo, si sedeva fuori, se no non entrava nessuno a casa sua, nessuno. Io suonavo, l'intendio a Bagendi, e lo sentivo dietro la porta, e dicevo, ecco, mica sono io, Claudio sono, io apri la porta a Claudio. Gabriele ci bisava, Gabriele Ayanna mi saltava sopra a giocare e a leccarmi, capito? E bisogna vedere, questo perché io lo portavo in macchina a questo cane con mio collega, quando eravamo in coppia assieme, il sabato e la domenica, ce lo portavamo appresso il cane nel fiorino, e lui si metteva dalla mia parte, e stava sempre controllando e facendo, e alla fine ha capito, questo è amico del mio padrone, quindi non si tocca, capito? Mica non sono macchie e cani. Perché io, quando entra qualcuno in casa, lui c'è vede che qualcuno di strano lo ringhia, no? Io per non farlo ringhiare accarezzo la persona che è dentro a casa, lui capisce che è un amico e dopo lo scudisco le ciglioca. Sì che io lo tocco, li faccio vedere, li faccio caro per fargli vedere anche il suo braccio, per fargli vedere che è un amico e lui è subito là. Esatto Gianni, esatto, è così che si fa. Invece questi randaggi cosa fanno? Istigano il cane a essere cattivo con tutti, soprattutto con gli altri cani. Capito? Anche sono tossici, capito? Sono randaggi, ed è per quello che diventano. Invece questo c'era il mio collega che è morto di vecchiaia. Era fenomenale, le mancava la parola, però non ti devi avvicinare con altri cani, perché i cani ne sopportava poco, infatti quando usciva sempre con la bucerola e guizzare, non lasciava mai da solo, mai, capito? E guai a te se ti avvicinavi alla macchina quando lui era dentro, no, io entravo in macchina, a me mi vedeva entrare e uscire dalla macchina di Gabriele, no, non c'era niente da fare, né sedile era né sedile rimaneva, ma altre persone, oh, vabbè, comunque quelli sono cani che hanno proprio l'istinto, vabbè che lì c'è molto più istinto di questi spacciatori per pervenire, no, per cercare che ci sia la polizia. Sto rendendo fuori dentro. Propagazione. Io comunque ho visto questo pitbull che ha buttato questa ragazza. Aspetta Capri 2 che hai parlato sopra Gianni. Aspetta, lo stato l'ha buttato. bassa. Sì, sì, sì, già, però è così. Aspetta che avete parlato in due con Capri 2. Gianni, stai chiudendo Capri? Sentiamo, vai. Ci siamo sentiti anche per telefono. Salutami moglie e figli e ci aggiorniamo, vai. Ok, vai Marco. Ciao, ciao Capri 2, dai. Ci sentiamo alla prossima. Buonanotte, buon tutto. Va, riprendete, dai. No, credo faccia la propagazione sotto, perché c'è uno che chiamava, no? Nord Italia, non so. Ma non credi, ha chiuso. Come già? Luca, ha chiuso. Fa caso anche il bar con l'Italia, con l'Italia. Ah, che Luca c'era, non ho sentito, se c'era saluto, dai. Sì, Gianni, già, non c'è da fare. Io li ho visti questi randaggi con questi pitbull, anche addirittura non c'aveva quello, come si chiama, quello ancora più cattivo del pitbull. Proprio volevo qualsiasi cane passava, prendilo. Infatti uno ha detto, ma la metterò via a passo, ho detto, ma chi vai lui sia Lugani? Se poi scappa è un cane in manco, eh. Sto gattini, io non so che c'ha un cane, sto gattini, non vorrei che cavato. Tutti non si ma all'inizio di Mario non sapevi dire né i rock argentini né i bitibur. Ui, ha preso il canario, l'ho preso proprio, fa bene giù, si chiama proprio uscia che è fatto, ma fatto però, le manca la parola, non esce né come un rosariola né l'insaglio, mi Mario, a fianco suo cammina, e quando vede cani, Mario dice, a te sto guardando, Edo continua a camminare piano piano vicino a Edo, ma se si avvicina. Però ce ne abbiamo fatto più di due di cani, il pastore tedesco che le stava rompendo le scatole, si è girato, l'ha portato prima lo berichi in alto perché il pastore tedesco le passa sotto a quello di Mario, sotto le passa, e guardi tu, è un cavallo, è più mano di Lalano, è più robusto, il cane ha 75 kg, l'ha messo prima il piede sopra, a quella ha pigliato il baramolo del gomito e poi l'ha girato dall'altra berra. Magari la zampa sopra. Scusa, la zappa sopra, la pigliata con la mano del l'ha girata all'altra parte e gli ha rotto il collo, capito? Sono i cani, bisogna, ad esempio il cane mio molte volte, però quando vede persone, perché se ne accorgo, no? Al tatto così, persone un po' brutte, un po', le abbaia, e uno mi ha detto l'altro giorno, sì, attento quel cane, cosa vuoi stare attento? Il cane è guinzaglio, stai attento tu a non avvicinarti, io ce l'ho a guinzaglio, metti la muciariola, a te la bongo la muciariola se non ti nandi la giurita uno. Poi se ne accorgono quando più dire di te, no? Diciamo se ne accorgono. A me quando mi dico lo posso toccare, prima potevi toccarlo, adesso va a pelle. Secondo chi è, si avvento. I bambini mi piacciono un bel bambini, si avvicinano con l'isola, non gioca, rimane. Però con certe persone è un po' restio, è molto diffidente. Non è il tuo differente, è la razza differente, anche Filippo è così, tutti i morsi sono così, molto differenti, però hai ragione, vanno a pelle, anche a me molte volte, se posso toccare, signora, è meglio di no, perché se lui non scodizzola quella covettina che c'hanno, la muove, non è contento di vederti, se invece la muove, sì, lo tocchi, i bambini vanno matto, quando salgono dal campo i bambini, che giocano quasi tutte le sere, c'è uno cicciottello, ma da lontano lo conosce Alessandro, da lontano, chi c'è? Allora è da Baita, come siamo visti, come ti vede Alessandro, lo mollo proprio, il guinzaglio è tutto, prendilo Alessandro, mantienilo con il guinzaglio, va lui proprio sopra a giocare, e tutti quei bambini della sua greffa ruvaggiano a pezzi ruvaggiano, perché? Perché le piacciono i bambini, capite? Lo sai che cosa piace? Quando sono grande, so, il più si diventi. Poi in questi diventi, chi dice che vedi, c'è il massimo ideale. Se non è fatto tutti i colori, voglio barevare, barocisci, barevare. Allora fanno compagnia, adesso sono arrivato, lui è lì sotto la televisione, collegato nella sua brandina. A proposito, già ho visto le brandine mie a Predagnetta, sono arrivate. C'hanno la brandina, quella con le molle, proprio come una branda nostra, no? Con le molle, bassa, bassa, bassa, e c'ha il coso in gomma piuma, il materassino in gomma piuma, non sai quanto è bello. Mimetica, Natale, mimetica. Sì, io lettino ce l'ho mimetico di Filippo. Filippo, chi è c'è Massimiliano? O io che cosa si fa? A te della volta non è che, ma si fa vedere da Massimiliano di Ruggia, ma avessi sino in Besa, della volta lo comprendi. Comunque l'unico animale in casa è il gatto, vero Marco? Non rompe, non sporca, anzi sporca. Buona la pizza. Già c'hanno la cassettina loro. Ogni pochi giorni si cambia. Non hai detto bene, ogni pochi giorni, non è che devi lasciare un mese, no? No, io prendevo il gatto, avevo la panichina, la pulivo ogni giorno, la pulivo, poi quando era da casa era cambiata, ma ogni giorno la pulivo, ricordiamo di pulire i pesci, la pulivo, si formava la panna. Sì, anch'io già, quando c'avevo il gatto, io c'avevo una gatta persiana incrociata con una serranda, lo stesso la pulivo. Oh raga, Marco, dimmi. Ma non è più entrato coso? Mascarazzo, Fabrizio Mascarazzo, sparito anche lui, Mi mica, ne dici? No, ancora io ho sentito Fabrizio, forse quest'estate, poi non l'ho più sentito, ma mi ha detto che era fuori, poi impegnato, non so, non l'ho più sentito. Marcello da Lecce, così è detto. Matteo, no Matteo. Matteo, ho capito. Matteo da Lecce. Va bene, ciao Matteo, buonasera. Claudio Bullone da Sassari. Cazzo Bullone è vero, ma c'è Matteo. Questo Bullone. Mi fa ridere questo Bullone, Bullone. Bullone da 10 mi chiamo io. Claudio Bullone da 10, perché c'è anche Bullone da 8. E poi c'è il mio amico qua che si chiama Marco Controdado, capito? Adesso te lo passo, vediamo se lo senti, sta sempre masticando, sembra che stia mangiando la ghiaia. Controdado, ci sei? Ciao, Tomia, ci vuole la chiave 13 per zingare. No, no, tu ti chiami Bullo, non Bullone. Ciao l'amico di Lecce, mi copi Marco da Sassari. E le delle... va, colore Gossamal, com'è? C'era stato Franco Califoni, invece di Bullone, diceva Bollone. È tipo la tapparetta, a me. La brittella. ma perché non è poco uomane questo Claudio? Sai che intesi? Ma chi t'antenna che andai arrabbiati? Non c'ho tempo, qui e là, di polo. Vai a fare il gomo, c'è di polo, vai. Oppure un'antenna mette i gettani, ti fai una terra a pesca. Invece di metterla su, la metti il poggiolo, non sia l'ultimo bianco. Devi fare le sciaffa, tirarti un bugiolo, a voi la fa cosa di polo, la di fare su a parte. Ma gli manca l'intelletto per farla. Lui è elettromeccanico, sa di macchine, ma di antenne non è sa. E si buono manco di lavare l'antenna. Anzi, l'intenna. No, già. Con quell'intenna. Ah, hai visto di fare una lavatrice, non antenna, lo si dice. Mollo. Caldarello. Natalia è 18. chiamata lì, hai risolto al computer? Via, ma ha rotto le scatole questo cazzo di computer, adesso ce l'ho visto in ora mara. Perché non è successo la salita? Ma non avevo virus, no, no, non potevo entrare su internet. Cazzo. Ma guarda, guarda, prova a controllare cosa c'hai. Fibra, cioè, non ne ho la DSL, c'ho la fibra. E già ho risolto. No, perché a volte basta spegnere le accende. Non mi riconosceva la scheda di rete. Ma come si è fatto così spesso, vero? E sto cazzo di guida di fibra, fibra, fibra. Ma che c'hai con la lavora? No, Tim. Io ce l'ho però cosa c'è? Vieni qua, tu davanti a te c'è un lecco. Che bello lavagliare con l'ecco. Ma a gente c'è un Gianni da bagnare con l'ecco. Allora, il cane di Gianni. Ah, con l'ecco. Bello, ah, l'effetto. Uia, c'ha più bella voce il cane che lui, eh. Oh, fai a 30 al cattedrale di San Pietro. Ti immagino, tu cani, se non è che lo badano o no? Sì, io, no, io ho tre. Funziona benissimo. E senza DSL, senza nulla, capito? Impianto interno. L'angelo ha detto che siamo dei bastardi, sentito là. Adesso siamo dei bastardi. E chi? Ma c'è da fissio. E chi? Gianni ha detto che siamo dei bastardi, come se il signor Angelo non era mi voglia stare un gioco sottardo. E tu c'è la varua con il ufficio, no? Vediamo io Angelino, che tu grasso, che sta per sapere, da Roma, papà. Cazzo, ne va, giù su Edo, ne va. Ragazzi. Non è che siete cattivi, siete solo dei piccoli bastardi. No, ho detto già, ho sentito l'ecco. A te c'è un collecco, già hai buttato un microfono. No. Ho visto praticamente gli enti corsi che stavano saltando la rughiera e le abbagliate. E siccome c'era il microfono, questo l'ho sentito. C'ha più bella voce Tyson di Sammy, casa lo tiene più bene Tyson che tu il baracchino, perché lui è uscito con l'ecco e tu no. Io posso farmi da Edo, non è tutto, se avessi niente per farmi da tutti, è classe per farmi da tutti, e Marco la rotta pignata. La baia è tu già. Ah, io faccio parlare il gatto al baracchino, gli faccio fare miau miau. L'allegria di Gus. No, Filippo lo teme il microfono. Se pongo il microfono la bacia. La bacia blu più, capito? Deve questa cosa. Roba così. Cazzo, se io se teme il coso, quando ti metti la asciugamano in testa per asciugarti i capelli ti abbaia. C'è un guasto. Una scena sono questi animali. Filippo a me mi si voleva fare l'altro giorno, gatta, quando sono andato. Però come ha fatto lo sportello subito dentro la macchina. E lui ti dico come ne le piacciono, capisci? No, Marco, ma poi quando vivono dentro casa, che vedono tutti i tuoi movimenti, le tue cose, no? Capito? E vedono un movimento strano, e il cosa, e gare il cosa, allora ti abbaia, capito? Quando mia moglie lo stesso asciuga i capelli, si mette una asciugamano in testa e poi si asciuga, ehi, abbagia tutto, se fai qualche manovra strana che lui non riconosce quella manovra, dire ma qua dentro non ne avete mai fatto queste cose, allora abbagia. E se non sta nel poggiolo, una volta c'è nel poggiolo senti abbagliare da solo, evidentemente vede qualcosa che noi non vediamo, già ne gioco. No, è perché è diffidente il cane che fa così, là. Oppure alle allucinazioni. Sì, allora potrebbe avere le allucinazioni come Pomponio. Cazzo di arte. Vado lì, è dormito. Oh, coraggio ed è andato in catalessi, in coma ittica. Era un ubriaco nefragico come che va a Pignara. Chi è questo? Chi è? Non dovrebbe passare. Aspetta, spostati ai binari, siete gazzeggheggia. Attenzione. Di propagazione, qualcuno che ci sente. In avanti vieni, trenino di Chirivani che ti bacia. Tanto non comprende Sassareggio. Magari Sassareggio fu. Oh yeah, anche lo shock, 20 e 23. Non so se mai sentito, se avete la radio accesa, ma io sono dalle 4 le radio oggi. Mi sono spostato sul 15 con Giuseppe a fare delle prove, gli ho fatto fare un paio di regolazioni, poi mi sono staccato, poi sono entrato dopo, poi ero sul 10, tutta la sera in radio gioco. No, io no, stavo guardando a Barbara. Vi avrei legato al palo e l'avrei scatenato a Filippo quando è in porra e l'avrei fatta bella. No, anche io l'avrei fatta bella me. Io l'ho sempre detto che la D'Urso merita una bottarella. Una bottarella? L'avevo bruciata finta che usando la bocca mi era uscito. Però una volta l'ho vista struccata, c'è una rivista di quelle femminili che prende mamma. Mamma mia, una sicura baria, con i baffi. È bruttissima se non si trucca. Non te la metti a voi da Marini, a grande fratello Vito. La inquadravano proprio la mattina quando si alzava. Un colpo, mai l'hai visto. Per carità, non te la brutta. Però le forme sono sempre quelle. Uno mangiava e voleva una buccia in capo, su che andiamo? Sì, guarda, se vai, se trovi su internet le foto delle attrici struccate, tipo quando fanno la spesa che sono proprio la mattina, senza trucco, che sia Ginette fa altro, che sia tutte quelle attrici belle, sembrano delle tossiche senza trucco. Il trucco fa molto, molto, molto. E molto male pure. E tutto questo trucco che si vuole mi rovina la pelle e tutto, non hai capito? Sono tutte rovinate per quello. Davvero? Il cerone si mettono, come Berlusconi. Ah, su. Davvero? Massimiliano. Buona, buona a tutti. Ciao Massimiliano, dai, vi saluto tutti quanti che sono a portare il giocare. Ci sentiamo. Buona continuazione a tutti. Ciao, ciao. Ciao, già. Ciao, già, ciao. Ciao Massimiliano, vai, sei rientrato. Io adesso sono rientrato, ciao, già. Sono andato a vedere la fiera, a prendere un po' di caloria. Oh, così è. Anche tu sei andato, Marco, alla fiera, no? Sì, sì, sì. Meno male che era gratuito l'ingresso. Guarda, l'unica cosa interessante erano quei motorini elettrici, gli scooter elettrici. Bro. No, ti stai sbagliando. E cosa? Per me erano quelle ragazze vestite tutte di nero. Vabbè, ne ho viste buone. Non so se hai visto quella, la zona moto, con quella tutina da motociclista. Quella biondina, amico. Quella era da stupro, era. No, io ce n'ero, ce n'ero. Già ce n'ero, anche se la tutina. O al settore trucco, non so se hai visto quel centro estetico che le truccavano al momento. E già ce n'era, tipo belle, altro che le promoter, quelle là, capito? No, però gli scooterini lì, a parte tutto il resto della mondezza, gli scooterini elettrici erano interessanti, solo che erano marche sconosciute, mai viste, cioè non era Piaggio, Aprilia, tutta roba usa e getta secondo me era. Magari fallisce domani la ditta e non hai più ricambi. Sì, vabbè, io già allora ci pigliavo tutti gli elettrici. E me, Claudia, ciao Natalia. Ciao, ciao, buonasera, io. Da dove visita tata? Io sì, io sono vittorio e abuso di non bisogno. Sono uscito stamattina, vabbè, il caffè l'abbiamo preso giù, poi sono uscito stamattina, ho fatto una chiamata a Natalino e ho appena rientrato. Ero col cucciuccio. E niente, è tutta la gira bisogna di in quarta marcia, però già va bene. In sesta non conviene, a meno che non ci sia, insomma, niente che non lo sente, lo aumenta, però per arrivare a Sassari va bene in quarta. Quanto arriva in quarta? 8 e mezzo in quarta arriva. Quando invece lo mette in sesta arriva a 9 con picchi positivi, più di 9 con picchi positivi. Ti è buono. Io quando arrivo l'uomo lo stesso, stasera sono provato. Sì, lo stesso, anche tu. Sì, e adesso Massimiliano abbiamo fatto metterla quel MB più 4 appena hai 5 minuti, siamo di Vergo, Italia, 7 connettore, ve l'ho col MB più 4 nuovo che ho io, capito? Qui se lo usa, e così lo sento anche meglio a Sassi. Però di radio ha migliorato molto, è vero Marco, di radio lo sentite meglio, no? Sì, ha migliorato. Il segnale stasera è arrivato, a me nel poco che ho ascoltato, a 7 e mezzo, quasi 8, quindi un pochino di segnale in più, pochino però, ma e poi tu sei più in alto, c'è poco da fare, dai. No, ma infatti ho detto, non fate il test, ma non perché non arrivate, lo sentite tutti. Però io me ne accorgo di più di voi, capito? Perché a me l'ultima volta con l'ignaretto piccolo mi arrivava a 7 e mezzo agganciato, liscio arriva sul 6 e qualcosa, ok? Però quando ho chiamato Gianni, ho chiesto a Gianni, abbiamo fatto le prove, e da Gianni andava da 2 a quasi 5, da Antonello Alessio più o meno la stessa cosa, un po' più basso però di come lo ricevo io. Il video che ha fatto Massimiliano, che Massimiliano sentiva intorno al 6, è a 9 pieno, proprio il video che ci ha mandato la moglie, capito, c'era Massimiliano, è a 9 pieno, e quindi ho detto a me il minimo mi deve arrivare 9-10, invece non ci arriva 9-10, ma è un problema di antenna, se lui avesse avuto la Mantova sarebbe arrivato, quanto è Valerio a casa, forse anche di più, perché il lineare è un 507 a 220, spara più di 300 watt, capito, con la potenza che le dà lui d'ingresso. Però automaticamente quando è agganciato gli aumenta anche la radio, quindi adesso io quando vedo l'MB più 4 sicuramente lo sentirete molto più forte. Media ha un 507, quello sì, trasistorizzato base, aspetta, costa anche un bel po'. Io mi stavo adocchiando invece un RMKL405, ha 9 MOSFET, di cui uno è il pilota, gli altri sono 8 MOSFET, praticamente il doppio di quello che ho io. Dovrebbe avere massimo 200 in AM e 400 SB, una bella bestiolina, costa poco anche, 165 euro giù di lì, più 8 euro di spedizione. No, quello costa. L'ho dato io, nuovo, ce l'avevo, non lo usavo e quindi gli ho dato a lui, capito? E lo usa al posto dell'altro piccolo che c'ha, un cos'è Massimiliano, quell'altro piccolo che ha? Un 300 cos'è? Io, c'è un B300, però da un centinaio, poco più di 100 watt, capito? Non so perché è sempre così. E quindi Massimiliano, tra io e Saliano, quello lì abbiamo messo, sistemato, ed è anche facile perché quella là doveva usare con l'alimentatore, invece questo ce l'ha presa a 220, lo accende ed è pronto, capito? C'ha le sue marcette e va bene, e va benissimo, nuovo. Però adesso devo mettere il microfono a tavolo, perché la radio è bellissima, c'ha un Telsat favoloso. C'è una ricezione con la radio favolosa, anche trasmissione, però ci vuole il microfono da tavolo, capito? Avanti Massimiliano. Sì, vedrai che quando mette quel microfono la cosa cambia. Giustamente adesso con il microfono normale la radio è molto più bassa, quando mette il microfono a tavolo è più bella. Va bene. Ma cosa mi fai se lineare? Al volo copra, mi dà di più di sublineare. E di la favola, il problema mi dà un bel rifatto, però se mi disintegrare la televisione, no, per cercare di entrare all'armadio, no, ma infatti non faccio niente, volendo che tu altro giorno mi hai detto lo vuoi, piccolino, se ne faccio una sceglia, intanto se devo parlare con Sassari posso usare il Galaxy che c'ha più di, c'ha quasi 20 watt modulati. Poi c'ho questi che potenza ne hanno quanto ne voglio, l'Alan 48, se voglio usare il 48 c'ha lo stesso 10 watt, cosa serve? No, non serve niente di niente, se poi mi serve di niente già usare, già faccio, faccio 2100, e la ISO ci metto poco a collegarlo al 440, ordino il cavetto per l'eccitazione relè, la LC, e vedi che allora hanno bisogno di 507, però non ne fai niente, per fare due chiacchiere, dopo che siamo rimasti, siamo con 10 watt, vengo 440, 10 watt, no. E modulati sono 30, 40, no? PEP, ma portante a 10 watt, quindi non lo sfrutti neanche. Tatalino, Tatalino 20, commenti passa che il tabuffet, ragazzi, buonimo 440 in Kiwi e famosa la paia. Ecco, 1, gaffa, gaffa, canale 10, qui Italia, Italia, cambio, cambio, cambio. Italia, ma Italia Sardegna o Italia della patria? Sardegna, buonasera, qui Roma 2, Mari, gaffa. Chi sei fuggito? Pensavo che stavi passando sotto casa mia con la macchina, come non ti sento? Se 9 più 10. Gaffa, poi ti dico gaffa, dai, non ti dai tutto oggi da parte mia. Dai. Le frambe che ci sentiamo, siamo due chiacchiere, gaffa. Non capite, Massimiliano, attacca l'ecco e dalle mattane. Ascolti Marco dalla città di Sassari, l'amico. K, sono nelle tue condizioni, una settantina, un'ottantina di watt, Superstar 3009. Vedi un po' se mi ascolti K. Va, comincia, dimmi. Ehi, la propagazione, il cappello va. Sì, tutta la sera c'è propagazione, tutta la sera. Sei l'amico di Bari, io sono Claudio Bollone. E l'iguglione. Non ho capito com'è che mi hai chiamato Bullone, mi chiamo Claudio Bollone, Bullone. Claudio Bollone, ok, dammi conferma. Sì, avevo capito una parolaccia, sì, Bollone. Sì, poi c'è Coso qua, Massimiliano Controdado. Massimiliano Controdado, lo senti l'amico di Bari? Sì, sì, lo sento, ma non so se mi ascolta lui, dai. Sì, Massimiliano, ti sento forte e chiaro pure a te, vi sento tutti. Sono in radio, mezzo watt. Mezzo watt stai uscendo, Massimiliano. E vedi, arrivi anche a Bari. Evidentemente c'è una buona zona. Com'è il tuo nominativo? La mortante se vuoi. A me? No, tu a me. Ah, abbiamo parlato in due. Sicuramente là. Va bene, Natali, tu all'ascolto, amico Ibari. Andiamo ascolto, andiamo ascolto, mi ascolto a tutti. Positivo, dai, tutto oggi. Gli amici che stanno sul 10, Bari, mi sente tutti, ok? Una alla volta così. Sì, appena. Ragazzi, poi già ti sta mettendo ordine. Amico di Bari, ascolti l'isola sarda. Cappa, dai, ti sento pure a te. Ok, dai, mi dai un segnale, per favore. Mi arrivi un segnale di 7, una radio di 5, tutta pulita, cappa. Non so tu che segnale ti faccio io a te, cappa. Attenzione, fresco, fresco. Ok, ok, avanti il break. Vabbè, dai, io mi saluto, mi sento di ascolta va bene così, dai. Ci sentiamo nel prossimo, ciao Claudio, Marco, Natalino che fosse all'ascolto sul canale 10, io chiudo che vado a mangiare la pappa. Ehi, ma ci vedi, lavori domani? Domani è lunedì, io lavoro per l'equilibrio oggi, quindi domani mi riposo. Ah, mi andate, allora ti puoi fare quelle commissioni. Certo che sì, infatti, ne approfitto, faccio le commissioni che tu sai. E così martedì mi rientro a lavorare che non ha giù altro di fa. Va bene Massimiliano. Gaia, saluta in casa Gaia, Dani, ci aggiorniamo telefonicamente domani, ok? Buona cena e buon tutto, vai Marco. Eia, ciao Massimiliano, dai, buona cena, buon tutto. Ehi, stasera un po' che chiamano qua. Eia, cosa volevo dire, boh? Non me ne ricordo. Mannaggia la miseria, non me ne ricordo. Attenzione, prego. Ehi, vedi, stai diventando rincoglionito per quello, te l'ho detto. Ehi, comunque hai ragione, che ogni tanto scantono un po' troppo, poi ti dirò anche perché. Devo stare più rilassato, più tranquillo, invece di essere troppo... Aspetta che faccio una chiamata. Attenzione, il Sud Italia, venite avanti tutti assieme. Stavo vedendo che impari mi voglio andare. No, Marco, fregatene. Appunto, l'hai detto tu, no? Più rilasciato, tranquillo, intanto non serve a niente fare così in disordine, capito? Te l'ha fottuto, rilassato, tranquillo e sereno. Ormai conviene stare così, capito? Anch'io sempre a diguglio, guida, io per la mia strada, gli altri per la loro strada, non me ne frega più un cazzo nessuno, tranquillo e sereno. Vedrai, campi meglio. No, pigliala in gomma le vostre mani. Avanti l'amico che chiama, qui è Sassari, Nord Sardegna. Dico, buonasera, l'amico Ferma che mi hai ascoltato. Ciao Angelo, dalla provincia di Bari, il tuo segnale 9 più 5 oscillante, la radio altrettanto buona. Cazzo, tutti da Bari giù. No, entra lì no banco e si mi appoggio. Ma voi non mi tutti dalla Puglia. Disgrazietti! Senti Angelo, conosci Alino Banfi? No. Ah, quindi tu sei da Gravina di Puglia lui, vero? Calparone, io sono proprio di aria, lui siamo una santa di aria, diciamo, lo nasconde, dai, non vuole dire che di aria. Perché lui dice sempre, non dice esattamente di dove è, capito? Cioè, ti ho fatto una battuta, aspetta, mi fa piacere che lo conosci. Grande personaggio, mitico Lino Banfi. Noi abbiamo uno qua a Sassari che si assomiglia a Lino Banfi, Natalino. Vai Natalì, vedi, c'hai un tuo anonimo, eh? Oh, ti ricordi il nome originale, il vero nome di Lino Banfi, Claudio? No, non lo so, io lo conosco sempre per Lino Banfi da ragazzino, perché c'è un nome d'arte. Quello è il nome d'arte, mi pare il nome vero sia Pasquale Zagaria, chiedo conferma all'amico di Bari. Pasquale Zagaria, non lo sapevo, io pensavo che si chiamasse proprio Lino, un diminutivo Banfi di cognome, capito? Invece un nome d'arte, ho capito, va bene. Bene signore, adesso io faccio il nome d'arte perché vado a cenare, sennò qua si pappano tutto e poi alla fine la prendo in gomma di vostra mano, capito? Come dicono a Napoli, eh? Quindi un abbraccio a tutta la Puglia, a tutta la provincia di Bari, a tutti gli amici del nord, centro e sud Italia, per chi ascolta la Sardegna, un saluto ai miei colleghi qua di casa, Marco, Natalino, Massimiliano, chiunque fosse in ascolto sul canale 10, io chiudo perché è pronta la pappa, ok? Un abbraccio a tutti, Massimiliano se vuoi riprendere chiudi tu e io sto andando a pappare. Ciao a tutti, buona serata e buon fine domenica. Stavo ridendo per una cosa, ti ricordi bene a tre come entrava? Stazione Gironi Cogliazzi. Sì, poi fa via. Beh, lo ci disoscendi. E così faceva Giuseppe, perché cazzo io un giorno sono andato a casa sua e c'era questa stanzetta, questo sgabuzzino, che non si vedevano manco le radio dal fumo che c'era dentro. Ma per carità, ecco perché si è ridotto i polmoni così. Fuma, anche l'uviglio, fuma. E a fottidini, ma la gente lo capisce, vero? Vero Natalino? Quante volte è tapponato? Non fumare, non fumare, non fumare. Ciao a tutti, via Diego, volevo chiamare Marco. La sigaretta, basta saperla usare. Certo, se te ne fumi 10 al giorno, cazzo, ma Giuseppe si fumava 3 pacchetti di MS al giorno. È chiaro che si è ridotto in quelle condizioni. Dai, un abbraccio a tutti, a tutta la Puglia, a tutti quelli che sono qua. Chiudo, ciao. Passo e chiudo, ciao. Ciao, ciao. Buon tutto, buon proseguo. Avanti, Marco. Caspita. 3 pacchetti di sigarette al giorno. Ce lo credo che non si è mai potuto comprare una casa propria. Ha speso tutto un fumo. Chi? Quella 3. Ah, è bello. Perché non è la sua la casa? No, no, no, Giuseppe. Il cognome è P, inizia P. No, è sempre in affitto, gira tombe di case, tuttora è in affitto. E già lo credo, se si spende tutto in fumo, ed ecco perché non ce l'ha comprata la casa. Vabbè, scherzo naturalmente, no, però fumava troppo e si sono visti gli effetti devastanti. Uno se ne fuma 3 o 4 macchette alla via, noi si fuori di grippa. Ma come se si fumi dici, no, quindi. No, io non fumo, non mi attira proprio, assolutamente. Non mi attira. Poi ti ho detto, Natale, me, non fumare, cambia vizio, datti al bere. Non si ammazza prima. Dalla padella nella braccia, io. E comunque tutto male, ogni cosa che piace, che sia il fumo, che sia il bere, che sia il dolce, tutto male fa, tutto. Tutti gli eccessi fanno male, sembra una specie di punizione divina, proprio. La gola, no, quella cosa lì, vabbè. Tutto, l'abuso fa male su tutte le cose. Mi ha fatto l'immagine questo Nicola Sanna coglione. Nicola Sanna aderisce allo sciopero della fame per lo Jussoni. Dimmi tu, che tu comunisti del bignuto di ragazza. Magari lo sindaco. Sì, non ha più dato solo che la cittadinanza a questi bastardi che sono qui. Tutti in mare vogliono. Oh, non lo sapevo. Ma deve essere la notizia di oggi. Oh, non lo so. Non lo so come sia negli altri stati, Come sia regolato. Non lo so. Cioè, se un italiano da due genitori, se due genitori sono, se uomo e donna sono in America, per esempio, no? E nasce, gli nasce un figlio, no? Da due genitori italiani in America. Il figlio cosa risulta? Nazionalità americana o sempre italiano? Sempre italiano, la cittadinanza te la danno quando diventi maggiorenne, quando ti studi la Costituzione, che sappi parlare pure bene l'inglese, altrimenti un cazzo te ne danno di cittadinanza in America. Oh, allora è giusto che sia così anche da noi. Poi non capisco perché a tutti i costi vogliono andare questo Ius Soli, perché a tutti i costi? Ci vogliono riempire di nordafricani, già siamo pieni, più gli dai la cittadinanza e quando se ne vanno più quelli? La cittadinanza comandava loro dopo e tu diventi schiavo di loro. Te ne immagini, andiamo a lavorare dai negri che fanno da capo, da datori di lavoro. E non ti la buffonendi, no? Ti ha detto, come ci danno lo Ius Soli diventiamo i padroni dell'Italia, mi dici. E poi quando lavori per loro ti dicono, lavora, sporco bianco. Bravo. Ehi, ehi. Vabbè. Tutto ha rotto l'Italia, è tutto un paese a cottusoglio. Certe volte viene voglia proprio di andarsene dall'Italia, per ripudiarla, come ha fatto mio cugino. Un paese senza opportunità, senza ideali. E vabbè, pazienza. Tanto dove vado io non è che ho piede uscita. Quasi quasi la salì, che ore sono? 20 e 52, dai. Mi sa che per oggi basta, ok. Ce ne andiamo tutti a dormire a mangiare. Ok, sentiamo domani. Tanto dovrei essere in radio anche domani, dai. Vabbè, se te ne vuoi andare, ok. Insomma, ne vado. Anch'io mi curico. Io ho già cenato, ho mangiato la pizza. Sì, e anche io ho mangiato pizza oggi. Pizza. E intanto adesso inizia il film o quello che è, insomma, qualcosa c'è da guardare. Aspetta, controllo un attimo il l'amperometro. Un attimino. Ora, 1, 2, 3, sì, già sta lavorando bene. Inteso è Nathalie. Quando parlavo con quelli di fuori, con Linearetto, mi dicevano la radio bella, limpida, perfetta, non satura. Proprio perché questo alimentato, questo Linearetto ha 10 watt in ingresso. Io lo sto pilotando con soli 5. Se lo piloti con 4-5 va bene, se lo piloti già con 7 satura, capito? Satura, perché beh, ne passano 5 e ne dà già 90, ti dico solo questo. Poi c'ho quel filtro anti-TVI, anti, e quindi ne escono 80 dopo il filtro, se ne mangia 10, diciamo, che poi c'ho tutte spurie armoniche, se ne dà 80 puliti, però, puliti. Quindi pilotandolo con pochi watt la radio rimane splendida, rimane bella limpida. Ecco il trucchetto da usare. Se c'è gente che conviene che dice gliene mette 10 o se ne dà 100 e più. E mai c'è male poi. Comunque i MOSFET sono ben lineari. Una volta mi ricordo col B150ZG si saturava molto spesso, molto volentieri. Perché non ha MOSFET, usava quei finali, quelli tondemi con le lamelle a croce, gli MRF455 mi pare, e li satura. Invece qua sono, mi pare siano IRF, non mi ricordo la sigla, tipo 1310, una cosa del genere, non me lo ricordo. Comunque sì, MOSFET, li piloti con pochi watt ed è un bijou, un bijou. Io mica mi metto a usare roba del genere, così incendio tutti i televisioni, no? Ti spegni il computer. Poi vabbè, avevo detto solo che mi piaceva quell'inearetto. L'RM Italy KL405, mi pare di 200 watt in AM e 400 SSB. Una bella bestiolina, se non di più, adesso io mi ricordo 200, ma poteva essere, certo che poi, vabbè, l'antenna non li regge, non avrebbe senso poi, l'antenna non li regge, l'alimentatore tanto meno, quindi io massimo ne posso mettere 150 continui, avendolo, perché poi l'antenna si scioglie e l'alimentatore è puro. Ma me ne vado a letto, ciao Marcoli, ci sentiamo domani. Ehi Atari, dai, aspetta, a letto alle 9, mamma mia. Io sto come un dannato fino alle 2, alle 3, anche alle 4. Non riesco più a prendere sonno presto, a meno che non mi stordisca proprio con i medicinali. Ma quello non è un sonno naturale, quello è proprio... Va bene, non ne parliamo. Ciao Natali, buonanotte, buon tutto. Buon tutto, adesso mi guardo che cosa c'è in televisione e poi vediamo un po', ci guardiamo qualcosa. Ciao Marco, a domani. Mia, saluti in casa, ciao ciao. Ciao.